2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo, questa è la puntata del 18 ottobre 2014, benvenuti o bentornati a 2024, il programma dedicato alla tecnologia di Radio 24. Abbonatevi gratuitamente al nostro servizio podcast, il futuro della radio sarà quasi sicuramente, o comunque buona parte del futuro della radio passerà attraverso i servizi on demand. E quindi il podcast già oggi vi permette di utilizzare e di riascoltare la nostra puntata quando preferite, anche a pezzetti durante la settimana. È un servizio gratuito e state tranquilli che lo sarà sempre, su questo non ci sono dubbi. Potete abbonarvi e quindi scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi ragione, potete raggiungerci anche attraverso Facebook o anche attraverso Twitter. Il mio account Twitter è semplicissimo, @Pagliarini. Allora, iniziamo dal piano banda larga del governo. Questo è un tema che dovrebbe interessare tutti, cittadini che magari ancora oggi non sono collegati adeguatamente ad internet e soprattutto le aziende. Essere collegati ad internet significa essere più competitivi, poi naturalmente sopra ci devono essere poi anche i servizi, non è che basta avere la fibra ottica o un buon collegamento ADSL. Comunque, la strategia del governo prosegue, potremmo dire, su due piani, su due fronti. Il primo è un maggior coordinamento con le regioni per l'utilizzo dei fondi comunitari, anche un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari. E questo è una strategia di breve medio periodo, o comunque abbastanza imminente. C'è poi un'idea molto più complessa e di medio-lungo periodo che potrebbe contenere un piano per realizzare una società della rete pubblica. Anche questa settimana c'è stato un po' di dibattito, di quasi polemiche potrei dire. Molti politici hanno risposto a questo dibattito a sproposito, dimostrando di non capire assolutamente nulla di tecnologia, di strategie di comunicazione all'interno di un paese. Comunque, vabbè, scegliamo quelli che invece comprendono qualcosa. Sono pochi, ma ci sono. Allora, qua si tratta di un progetto di ampio respiro, sicuramente molto, molto complesso, per passare definitivamente alla fibra ottica e abbandonare gradualmente il rame. Ovviamente questa è un'idea che vede Telecom Italia al momento contraria, visto che per il momento la rete in rame è l'unica vera garanzia al debito. Tuttavia si può dialogare e si può far capire anche a Telecom che probabilmente una infrastruttura passiva neutrale può essere un beneficio anche per questo grande operatore. Comunque la vicenda è complessa, sicuramente questa si svolgerà nel medio-lungo periodo. Più ravvicinato è invece il piano che è stato presentato alle regioni, per il momento in una riunione a porte chiuse, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio e da Raffaele Tiscar, che è il responsabile di questo dossier a Palazzo Chigi. Allora, secondo quanto riporta il Corriere delle Comunicazioni, è stato detto alle regioni che il loro lavoro dovrà essere fatto secondo un'unica strategia, cioè ci deve essere maggiore coordinamento, non ognuno per i fatti propri. Tutto questo per utilizzare in modo più efficiente i fondi comunitari e anche per raggiungere, insomma, per cercare almeno di avvicinarsi agli obiettivi dell'agenda digitale europea. Questo piano dovrebbe essere poi presentato pubblicamente entro la fine del mese. Insomma, tema molto, molto interessante e anche molto, molto complesso. Quante volte avete sentito dire che un criminale è stato incastrato dalle fotografie o dai messaggi scoperti sul proprio telefonino? Uno viene pescato e poi i poliziotti o chiunque altra forza dell'ordine va a vedere sul telefonino e magari lì si scoprono cose molto interessanti che possono incastrare o far prendere una piega piuttosto che un'altra alle indagini. Allora, con l'ultima versione di iOS, il sistema operativo di Apple, e di Android, il nuovo sistema operativo, tra l'altro ne parleremo anche oggi del nuovo sistema operativo Lollipop di Android, tutti i contenuti presenti sullo smartphone vengono cifrati e solo chi conosce il PIN, insomma la password di accesso al terminale, al telefono, quindi tendenzialmente il proprietario, può accedere a quei dati. Apple e Google hanno spiegato che nemmeno loro hanno le chiavi d'accesso per decifrare ciò che il software protegge con crittografia, quindi quei dati sono protetti di default sul terminale, sia sui nuovi prodotti che hanno iOS 8 sia sui nuovi prodotti che hanno Lollipop, il nuovo sistema operativo Android. E questa è una tendenza in atto, cioè quella di garantire cifratura, quindi una maggiore protezione dei dati. Dunque, negli Stati Uniti c'è un dibattito piuttosto acceso, perché alla polizia di fatto, ma non solo alla polizia degli Stati Uniti, verrà meno un importante strumento di indagine. Il capo dell'FBI, James Comey, ha detto che questo indurrà, secondo lui, lo Stato a creare leggi che obbligheranno le aziende a realizzare sistemi con i quali le forze dell'ordine possono accedere a quei dati, ma non sarà mica tanto facile. C'è però anche il lato opposto della medaglia: software meno robusti o comunque possibilità d'accesso da parte della pubblica amministrazione, quindi della polizia, possono poi essere sfruttate anche dai criminali, dagli hacker, che potrebbero utilizzare quelle porte per entrare clandestinamente nei nostri dati. E di questo l'amministrazione Obama è consapevole, tanto da aver raccomandato l'uso della cifratura nei servizi digitali. Quindi, insomma, il dibattito è acceso, piuttosto intricato e complicato. Sta di fatto che molte aziende stanno dicendo ai propri clienti: guardate che stiamo andando verso una maggiore cifratura utilizzando crittografia per proteggere i vostri dati, quindi cercando di metterli al riparo anche dalle istituzioni. Non so se riusciranno a metterli al riparo addirittura dalla National Security Agency, che ha dei centri elettronici giganteschi che sono capaci di elaborare milioni di dati, e quindi probabilmente lì sarà un po' più complicato. Però questa è un po' una tendenza, e tra l'altro negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, c'è anche un ricco mercato. E quindi da una parte la polizia dice: ma se create delle porte blindate così forti, noi non riusciamo poi a entrare e andare a vedere quali dati ci sono e potrebbero essere dati utili per le indagini. D'altro canto c'è anche un ricco mercato di aziende che stanno realizzando software per blindare, un po' come appunto le porte blindate, e quindi c'è comunque un'attenzione anche al business. Vedremo che cosa succederà, tema molto interessante che vi invito ad approfondire anche online. Adesso le nostre notizie in breve della settimana. Digital News. Allora, una notizia che riguarda le case costruite dopo il 1 luglio 2015 dovranno essere predisposte per la fibra ottica, per la banda larga. Lo prevede un emendamento al testo del decreto Sblocca Italia, che da lunedì comincerà l'iter nell'aula della Camera, quindi vedremo se questo testo non verrà cambiato, ma dovrebbe esserci un accordo abbastanza diffuso su questa previsione, appunto, che le case costruite dopo il 1 luglio 2015 dovranno tutte essere predisposte per la fibra ottica. Broadband ready, si dice. Digital News. TD Lab, il laboratorio del turismo digitale attivato al Ministero dei Beni Culturali, ha elaborato il piano strategico digitale per il turismo in Italia. Quante volte abbiamo detto che dovremmo svegliarci da questo punto di vista? Allora, prevede tre ambiti di intervento: interoperabilità e big data, sviluppo digitale e promozione e commercializzazione. Naturalmente sono titoli. All'interno di questi macro temi ci sono 30 azioni concrete destinate a essere realizzate dal nuovo Enit. Questo è un argomento molto interessante, vedremo se riusciremo in qualche modo a parlarne in modo semplice. Digital News. Lo smartwatch italiano AmWatch, forse lo ricorderete, uno dei primi ad essere stati presentati sul mercato quasi 2 anni fa, pensate che deve ancora uscire Apple Watch, e questo invece era già uscito 2 anni fa, quindi un precursore di questo mega trend dei wearable devices, degli oggetti indossabili. Bene, AmWatch esce di scena perché il progetto verrà chiuso causa troppa concorrenza. Questa è la scusa ufficiale, la motivazione ufficiale. La verità per molti esperti è che il prodotto non è mai decollato per i troppi problemi tecnici e anche problemi di supporto, quindi problemi commerciali. Comunque si chiude una pagina. Skype ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Kick, Q-I-K, che permette di inviare video di massimo 42 secondi ai propri contatti su Skype. I video rimarranno in linea per 2 settimane. Non mi sembra un grande servizio, ce ne sono tanti altri, ma non mi sembra che gli utenti siano così desiderosi di avere a disposizione la possibilità di registrare brevi video e lanciarli ai propri contatti. Però vedete voi, provatelo. Digital News. Dunque, Microsoft ha annunciato che circa 1 milione di persone hanno scaricato Windows 10, o comunque ci sono stati 1 milione di download. Il nuovo sistema operativo arriverà sul mercato fra circa un anno, ma ricordiamo che può essere scaricato e provato gratuitamente per 3 mesi. Ci sono state nelle ultime settimane e ci saranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, molte iniziative che riguardano la informatica di base e soprattutto la conoscenza dei linguaggi di programmazione. Ce ne sono varie, ce n'è stata una anche alla fine di questa settimana alla Camera, all'interno di un laboratorio chiamato Coder Dojo. E noi siamo favorevolissimi e anzi sponsorizziamo virtualmente tutte queste iniziative, perché una delle cose sulle quali puntare è proprio il software. Molti esperti dicono che gli italiani e la creatività degli italiani si sposa molto con la programmazione, dove bisogna essere sia tecnici ma anche avere una buona dose di creatività, perché di fatto poi il software è creatività. Quindi benissimo queste iniziative, applausi a tutti coloro che a vario titolo si impegnano perché la cultura della programmazione si diffonda, visto che queste iniziative sono spesso destinate ai più piccoli. E questo è anche un consiglio per i genitori: laddove è possibile, sicuramente il software e tutte le materie legate alla creatività digitale, e il software è una delle componenti principali, sono da scegliere e possibilmente anche come percorso di studi per i vostri figli, visto che buona parte del nostro futuro passerà di lì. Beh, se uno è capace di programmare, sicuramente pone buone basi per il proprio futuro. Come diceva Barack Obama recentemente in un video rivolto alla nazione, durante una settimana dedicata alla programmazione, invece di giocare solamente, cari ragazzi, cari bambini, preoccupatevi di creare un videogioco, programmare un videogioco. Da lì si inizia, poi magari si programmano cose molto più complesse e molto più importanti. Questo è 2024, ci fermiamo per circa un minuto. Tra poco parleremo delle novità principali che sono state lanciate e presentate questa settimana. Questa è una settimana ricca di novità sia dal punto di vista software sia dal punto di vista hardware, perché Android ha presentato, Google ha presentato il nuovo Android Lollipop, la nuova versione del sistema operativo per smartphone e tablet, ma sono stati presentati anche 2 terminali, uno smartphone molto grande, che quasi quasi non è più uno smartphone ma, come si dice, phablet, e anche un tablet. Parleremo anche dei nuovi iPad e anche di alcune novità software che sono state presentate da Apple questa settimana. Questo è 2024, ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo delle novità che sono state presentate dai 2 poli di attrazione principali di tutta quella che va sotto il nome di App Economy, ma anche di tutto il mondo dei terminali, che fino a qualche anno fa era sconosciuto al mondo, e parliamo di smartphone e tablet, e i due poli di attrazione sono Android, che ha una fetta di mercato la fetta di mercato più grande, ma anche Apple, che in termini di innovazione è stata quella che ha creato buona parte di questa economia digitale della app economy. Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale del sito internet di informazione tecnologica dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora Gianfranco, iniziamo non solo perché va messo prima in ordine alfabetico Android, ma anche perché l'annuncio è stato fatto per primo questa settimana dalle novità presentate dal mondo Android, quindi non solo terminali ma anche e soprattutto sistema operativo. Android 5.0, l'ultima versione. Solitamente, per tradizione, Android ha anche un simpatico nome d'arte, potremmo chiamarlo. Per questa versione che cosa è stato scelto? Siamo arrivati alla release L, quindi dovevo iniziare con L, e è stato scelto Lollipop, cioè lecca lecca, L anche in italiano in questo caso. E si vede che i tempi incominciano a essere un po' più di crisi rispetto al solito. Per questa release non è stato trovato lo sponsor. Nell'ultima release lo sponsor era invece KitKat, che aveva sponsorizzato appunto il nome dell'ultima release. Questo è un nome senza sponsor. Allora, quali sono, in estrema sintesi, naturalmente oggi accenneremo alle novità più interessanti, quelle che ci sono sembrate più interessanti di questo nuovo sistema operativo. Ricordiamo che Android è il sistema operativo principale per quanto riguarda i terminali mobili, quindi sia smartphone che tablet in tutto il mondo. Poi le percentuali variano da paese a paese, però possiamo dire tranquillamente che siamo su percentuali attorno all'80%. Poi ci sono paesi dove il numero è un po' più basso, in altri dove il numero è un po' più alto. Caratteristiche principali più interessanti di Lollipop? Revisione dell'interfaccia e revisione della grafica di base, che è stata per certi versi semplificata, resa più lineare, un pochino più simile, cioè prendendo forse le cose buone e migliori che magari abbiamo visto su Windows Phone, anche un po' più ariosa, c'è cioè più spazio, e quindi questo migliora l'esperienza d'uso, almeno per quello che abbiamo potuto vedere, più che altro screenshot per il momento. Sicuramente sono molto belli, più moderna, ecco, diciamo così, sicuramente più moderna. E poi c'è una grande novità architetturale che già si era vista in parte sulla release precedenti, che questa volta è il completo supporto a 64 bit su tutte le architetture, e questo si traduce poi in realtà per tutte le app che già in parte sono scritte a 64 bit e che verranno sempre più scritte, anzi esclusivamente scritte a 64 bit nel futuro. È una nettamente una potenza, una reattività migliore, e quindi questo tra l'altro dovrebbe sposarsi anche con un'ottimizzazione di tutto il sistema operativo, legata poi anche alla durata della batteria. Altre cose che possono essere interessanti, per esempio, riguardano l'engine audio, cioè tutta l'architettura base del bus audio di Android era particolarmente carente rispetto per esempio alle soluzioni Apple, perché aveva una latenza ancora molto alta. La latenza molto alta fa sì che sia quasi impossibile usare applicazioni audio in tempo reale, cioè quindi per esempio applicazioni per la creazione musicale o per il controllo musicale, con magari collegando il telefono a delle superfici di controllo, per esempio per fare mixing o cose simili, o meglio si può fare ma con molti limiti proprio sulla reattività tra il gesto e poi l'emissione per esempio del suono da parte del telefono. Adesso con questa nuova architettura la latenza dovrebbe, poi lo testeremo, ma dovrebbe scendere a livelli bassissimi e permettere quindi l'utilizzo di nuovi device digitali, dal controllo musicale alla digitalizzazione, quindi per esempio i pre per chitarra per suonare dal vivo, fino ai microfoni, cuffie digitali collegate via USB. Tu hai citato l'audio, e ad alcuni potrebbe sembrare marginale, ma diciamolo e ricordiamo che con la diffusione degli smartphone, soprattutto nei primi anni, smartphone Apple, ma ultimamente anche Android, ci sono milioni di persone in tutto il mondo che suonano con gli smartphone e fanno creatività oppure con i tablet. Quindi il settore musica è tutt'altro che marginale. Ma altro che, non solo, basta pensare banalmente, senza andare neanche su chi sa veramente poi magari suonare la musica con uno strumento musicale e lo può collegare a uno smartphone, a un tablet e usarlo come studio di registrazione portatile, ma anche banalmente oramai qualsiasi DJ sta via via abbandonando i vinili o i CD e sta passando a ormai la musica fatta con il PC va da sé, ma sempre più anche semplicemente con i tablet, usando la superficie tattile dello schermo come superficie di controllo, e quindi un piccolo console di mixing digitale pronta sullo schermo. Certo, ci vuole che per fare questo, magari collegando anche un microfono e quindi usando anche la propria voce, ci vuole che la latenza sia assolutamente bassa. Se la latenza è alta, la musica suona in un momento e la voce del cantante, del karaoke anche banalmente, arriva in ritardo. Sì, questo è interessante. Tra l'altro ricordiamo che IK Multimedia, che è un'azienda italiana, è leader in questo settore, produce oltre che software anche strumenti per smartphone e tablet, e c'è stato un boom di questi strumenti grazie ad Apple, ad iPhone e iPad, e è già sbarcata su Android, però sicuramente questa nuova capacità di Android farà forse esplodere il mercato anche in questo settore. Ancora pochi minuti per parlare di due caratteristiche. Una è il nuovo codec HEVC, che è nativo, e ti faccio spiegare insomma qual è la motivazione dell'importanza di questa novità, e poi parliamo anche un attimo di sicurezza. Beh, HEVC è il nuovo codec che permette, diciamo, a parità di bitrate di passare da una risoluzione standard definition a un full HD, o addirittura passare da un full HD a un 4K a parità di bitrate, quindi funziona molto meglio dell'MP4 e ormai sarà impiegato sempre più su un sacco di servizi anche di streaming. Questo può essere chiaramente una caratteristica di decodifica che può essere data a un device, a un telefono con un software di terze parti, ma Lollipop, quindi Android 5.0, nasce nativamente con la capacità di decodifica HEVC anche fino alla risoluzione 4K. Quindi parliamo di un device che è già assolutamente pronto per qualsiasi servizio di streaming. Negli Stati Uniti già oggi esistono servizi di streaming 4K in questo standard. Allora, lo lasciamo per un'altra puntata, perché bisognerebbe poi spiegare che senso ha avere un 4K su uno smartphone o su un tablet. Però lo lasciamo, tu sorridi, giustamente, lo lasciamo un'altra puntata. L'ultima cosa, potremmo raccontarne molte altre, ma l'ultima cosa che diciamo è che nativamente Android nuovo L Lollipop avrà la cifratura dei dati, quindi c'è anche una polemica, come abbiamo detto poco fa, delle forze dell'ordine americane, perché nemmeno le forze dell'ordine, ma nemmeno l'azienda stessa potrà risalire ai nostri dati, solo noi sapendo il nostro PIN, la nostra password. Questo nuovo sistema operativo sarà disponibile quando e su quali terminali? Sarà disponibile innanzitutto su due terminali che sono stati annunciati, che sono della serie Nexus, quindi dei terminali che sono in qualche modo governati, coprodotti dalla stessa Google, e sono uno smartphone, diciamo quasi un phablet, Nexus 6, e un tablet, il Nexus 9. Questi arriveranno entrambi in novembre, e poi il sistema operativo via via verrà reso disponibile sui nuovi device che usciranno, che dovranno ancora essere annunciati, ma anche su vecchi device. Quindi i vari produttori, alcuni si sono già impegnati a rendere disponibili gli aggiornamenti a Lollipop dei loro vecchi device. Per esempio Sony, che è stata la prima a fare questo annuncio, ha già detto che tutti i terminali della serie Z, quindi non soltanto l'ultimo Z3 ma anche lo Z2 e lo Z, sia smartphone che tablet, verranno aggiornati a Lollipop a partire dai primi mesi del 2015. Quindi ci vuole un po' perché il sistema operativo che viene rilasciato in questi giorni venga ricompilato per questi device, ma Sony si è impegnata a rendere disponibili nei prossimi mesi questi aggiornamenti. Sì, ricordiamo che il problema della frammentazione è uno dei problemi più gravi di Android, del mercato Android, perché ricordiamolo Gianfranco, i produttori dei terminali che montano Android devono preoccuparsi della distribuzione del sistema operativo che viene rilasciato da Google, ma poi appunto ogni produttore deve fare il proprio. Ma in realtà qui c'è un po' un equivoco, perché si pensa che Android sia precisamente lo stesso per tutti. Google rilascia il codice base di Android, ma poi, perché questo funzioni bene su ogni device, deve essere ricompilato e ottimizzato con tutti i driver di quel device, e questo è un compito che deve essere svolto ovviamente dal produttore del telefono o del tablet in questo caso, e non certo da Google. E questa è un'operazione che richiede un po' di tempo di lavoro da quando Google rilascia il codice, e il tempo normalmente in questa operazione significa anche quattrini, quindi i produttori non sempre sono così propensi ad aggiornare i propri device, soprattutto se la base installata non è numericamente importante. Quindi poi alla fine il nostro consiglio è sempre quello di, quando si sceglie un telefono Android, di scegliere su un telefono di successo, perché questo dà maggiori garanzie sul fatto che quel terminale venga poi tenuto aggiornato nel tempo con le nuove release, come in questo caso. Beh, naturalmente questo problema della frammentazione non ce l'ha, o comunque non ce l'ha a questi livelli Apple, di cui parleremo tra poco, però visto che abbiamo accennato a Nexus, questi due nuovi terminali, uno smartphone e un tablet che usciranno tra poche settimane anche nel nostro paese, diciamo qualcosa di Nexus 6, che è lo smartphone. Lo smartphone che è di produzione Motorola, sempre Google, ogni volta per ogni device Nexus sceglie un partner hardware diverso, in questo caso ha scelto la ex controllata Motorola, per un device che è assolutamente allo stato dell'arte, sia per materiali, per prestazioni, a partire dallo schermo che è un AMOLED Quad HD, quindi molto molto bello, da 6 pollici come dice il nome stesso Nexus 6, quindi un terminale anche molto anche ingombrante, va da sé, ma con uno schermo che quasi rasenta i piccoli tablet, e quindi che permette anche la visione per esempio di fotografie e di film in maniera molto importante, con un display molto molto buono, 2560x1440 pixel, quindi un display molto importante. E lì c'è stato un po' di polemica, perché qualche appassionato che aspettava questo terminale si aspettava prezzi forse un pochino più accessibili, invece i prezzi che sono stati annunciati sono rispettivamente di 649 e 699 euro per la versione da 32 GB e da 64 GB, che sono un prezzo che stride un po' se si pensa che i vecchi Nexus, quindi le generazioni precedenti di Nexus, avevano dei prezzi sempre molto aggressivi. Si diceva perché Google in qualche modo finanziasse la diffusione di questi apparecchi. Ecco, questa volta sembra che Google non abbia fatto niente. È un prezzo equo, corretto per un prodotto top di gamma, ma non è così super conveniente come era nelle vecchie release Nexus. Bene, due parole anche su Nexus 9. Che cos'è un 9 pollici in questo caso? È un quasi 9 pollici, un 8,9 pollici, quindi semplificato a 9 pollici, un po' più semplice come prodotto, un po' più normale, un po' più basso di gamma, tant'è vero che i prezzi sono più contenuti, 399 e 489 euro, a seconda che si parli della versione da 16 o da 32 GB Wi-Fi, mentre quella anche con connettività 4G costa 569 euro, ed è caratterizzato da un aspetto a mio avviso molto interessante e che io trovo assolutamente vincente: il display è 4/3. È abbastanza raro che i tablet Android abbiano un display in formato 4/3, che poi è lo stesso rapporto di forma che ritroviamo su iPad, e proprio per l'utilizzo sia in orizzontale che in verticale, per la larghezza della pagina, è abbastanza evidente anche un utilizzo frequente o anche occasionale come il rapporto di forma 4/3 sia particolarmente vincente, almeno questo è il mio parere personale, però so che molti utenti condividono questo aspetto. In questo caso il tablet è prodotto da HTC. Adesso facciamo una pausa, alcuni minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, stiamo parlando delle novità presentate questa settimana, tra poco anche quelle annunciate da Apple, non solo la nuova versione di iPad Air, e forse le novità più interessanti non sono legate a questo annuncio, o meglio, una forse è anche legata a questo annuncio, ma ce ne sono altre che riguardano il sistema operativo per i Macintosh e anche un nuovo display 5K addirittura. Ci sentiamo tra poco. 2024. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, ci trovate anche su Facebook o su Twitter, cercate Enrico Pagliarini oppure anche 2024. Dunque, nella nostra versione podcast io vi consiglio e vi invito tutte le settimane ad abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 in modo molto semplice. Se vi manca qualche coordinata scriveteci una email e vi daremo tutte le istruzioni per abbonarvi gratis. In questo modo settimana dopo settimana potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, portarvelo in giro, ascoltare 2024 a pezzetti in modo molto semplice e molto comodo. Allora, nella nostra versione podcast, stavo dicendo, troverete anche una parte dedicata sia a Nexus 6 che a Nexus 9, quindi Nexus 6 e Nexus 9, rispettivamente lo smartphone molto grande presentato questa settimana da Google e anche il tablet. Uno è molto costoso e sul prezzo del Nexus 6 c'è stato un po' di... ci sono state alcune critiche, invece il tablet è un prodotto sicuramente ad un prezzo molto interessante, rispettivamente prodotti da Motorola e HTC per Google. Nexus è la versione dove gira Android nella sua versione più pura del sistema operativo. Passiamo ad Apple, le novità presentate questa settimana interessanti. Allora, secondo me la più interessante in assoluto è una cosa di cui non si è parlato durante il keynote di giovedì sera. Allora, si sa che i nuovi iPad Air, quindi la versione aggiornata nuova dell'iPad Air, avranno una SIM integrata. Allora, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per la connettività dati via rete cellulare, quindi 3G e 4G, non sarà necessario inserire la SIM di un operatore, ma nei tablet, quindi nei nuovi iPad, ci sarà una Apple SIM, una SIM della Apple che permetterà di agganciare l'operatore scelto di volta in volta, tutto via software. Allora, Apple ha firmato accordi con AT&T, Sprint e T-Mobile negli Stati Uniti e con Everything Everywhere, che si conosce come acronimo EE, quindi doppia E, in Gran Bretagna. Quindi per adesso questa novità riguarda solo questi due paesi e non ci risulta, da un giro di telefonate che abbiamo fatto, da informazioni che abbiamo raccolto, non ci risulta che a breve questo arrivi anche in Italia, ma chi lo sa, anche perché su Apple molti sono abbottonatissimi. Allora, come funziona questa novità, che secondo me dà un po' il senso anche di una tendenza in atto non solo per quanto riguarda Apple? Allora, in pratica si sceglie l'operatore e lo si seleziona nel menu dell'iPad senza bisogno di rimuovere fisicamente la scheda SIM. Facciamo un esempio: se esistesse in Italia questo servizio e ammettiamo che Apple avesse stretto accordi con gli operatori, con i principali operatori che attualmente hanno in gamma prodotti Apple, cito 3, TIM e Vodafone, non cito Wind che al momento non ha un accordo commerciale diretto con Apple. Allora, in questo caso ci sarebbe dentro la SIM di Apple e uno via software decide l'operatore con il quale agganciare la rete, naturalmente previo aver fatto un contratto con quell'operatore, ma non bisogna cambiare la SIM. Allora, l'intenzione di Apple è abbastanza chiara, almeno per gli addetti ai lavori, cioè diventare un operatore globale di telefonia mobile, cioè avere un rapporto diretto con il cliente anche sulla connettività dati. Alcuni di voi diranno: ah, ma questo l'ha già fatto Amazon, perché se uno compra Kindle uno può scaricare i libri, gli ebook sul Kindle, sul lettore Kindle, senza sapere a quale rete e a quale operatore il Kindle si connette, perché pensa Amazon a fare accordi globali in tutto il mondo con gli operatori e a pagare la tariffa per scaricare gli ebook. Però un conto è scaricare degli ebook che pesano pochissimi mega, insomma, pesano pochissimo. Un conto è fare un accordo invece per un iPad, quindi un tablet, che genera un traffico sulla rete piuttosto importante. Quindi questo è sicuramente un aspetto interessante. L'intenzione di Apple, lo si sa già da molto tempo, è quella di arrivare addirittura, ma chissà se ci riuscirà, ad eliminare la SIM, cioè virtualizzarla all'interno del terminale, anche per ragioni di spazio, ma soprattutto anche per ragioni meccaniche, perché la SIM, stiamo parlando di una cosa che si deve infilare, che quindi ha una piccola slitta e quindi un piccolo alloggiamento, ed è una cosa meccanica che si muove, quindi si può rompere, presenta problemi di gestione, insomma, di progettazione. Quindi in questo modo sarebbe tutto fatto via software. Si può fare, però c'è naturalmente tutta la lobby rappresentata dalla GSM Association che si oppone a questa tendenza. Allora, da un certo punto di vista è quello che sta accadendo nel mondo dei pagamenti. Allora, fate attenzione, sapete che oggi la tecnologia NFC, che è abbinata ai pagamenti, ha come elemento di sicurezza la SIM. Ne abbiamo parlato tante volte, si possono già effettuare in alcuni casi pagamenti con uno smartphone NFC, lo si avvicina al POS e si paga, lì c'è stata virtualizzata una carta di credito, però l'elemento di sicurezza passa all'interno, passa dalla SIM, e quindi ci deve essere un accordo tra il sistema bancario, il sistema delle carte di credito e l'operatore di telefonia mobile. Bene, sia Visa che Mastercard hanno stanno supportando una tecnologia che si chiama HCE, Host Card Emulation, che è una emulazione software e su internet di una SIM card. Quindi anche in questo caso viene bypassata la SIM card, viene bypassato l'operatore, quindi in entrambi i casi, insomma, sia in questo mondo sia Apple stanno tentando di far fuori gli operatori di telefonia mobile, ed è naturalmente dal loro punto di vista un bel problema. A proposito di questa novità, questa settimana Visa e Carta C hanno annunciato che questa tecnologia per virtualizzare, bypassare la SIM card sarà disponibile presto anche in Italia. Carta si spiega che permette di virtualizzare all'interno dello smartphone le carte di pagamento indipendentemente dall'operatore telefonico utilizzato. E qui sta il gioco. Al suo lancio, entro fine anno, potranno utilizzarla tutti i titolari di una carta SI, che in Italia sono moltissimi, carta SI Visa, dotati di smartphone con sistema operativo Android nella versione penultima, insomma KitKat 4.4 o superiore. Abbiamo parlato di Lollipop. Allora, torniamo da Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, per parlare delle novità presentate da Apple, partendo dall'aggiornamento di questo nuovo iPad, Gianfranco. Sì, l'iPad Air, che adesso si chiama iPad Air 2, ed è un aggiornamento, non una rivoluzione, è sì più sottile, è sicuramente più potente, si parla di un 40% in più di potenza, ma poi bisogna vedere all'utilizzo pratico quanto questo poi conti effettivamente, e di fatto migliora la fotocamera e introduce il Touch ID anche sull'iPad. La fotocamera migliora, diciamo che però migliora, ma assume le stesse caratteristiche di targa che avevamo sull'iPhone 5S, quindi non diventa quella dell'iPhone 6, men che meno quella stabilizzata dell'iPhone 6 Plus, quindi sì, migliora, ma resta, diciamo, una generazione indietro rispetto all'iPhone, e poi aggiunge il Touch ID, quindi il sensore di impronta digitale, che permette di fare lo sblocco rapido del device e anche l'autenticazione autenticazione, per esempio per lo scaricamento di applicazioni. Nello specifico Apple ha anche annunciato che il Touch ID potrà essere utilizzato anche per Apple Pay, quindi per i pagamenti, per l'autenticazione in caso di pagamenti, ma solo per i pagamenti online, quindi non in negozio dove ci serve l'NFC e questo apparecchio non ha un NFC, al contrario di iPhone 6, ma potrà essere utilizzato per pagare, per esempio, per un acquisto online, quindi senza stare a mettere numero di carta di credito, credenziali o cose simili, basterà dire pago con Apple Pay, toccare l'impronta digitale, quindi autenticarsi e il pagamento va a buon fine. Allora, ricordiamo che Apple Pay per il momento è un servizio di pagamento elettronico che vale solo per gli Stati Uniti, partirà ufficialmente lunedì per i clienti Apple che hanno un particolare circuito bancario o di carta di credito. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, tra poco parleremo brevemente di una novità che sicuramente è molto interessante, che riguarda il nuovo sistema operativo Yosemite per i Macintosh, che ci dà anche in questo caso il là per parlare di una tendenza, e poi parleremo anche di un'altra novità arrivata da poco sul mercato. A tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. L'ultima parte di 2024, ultime riflessioni assieme a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it, uno dei nostri esperti a 2024. Allora Gianfranco, parliamo di Continuity, perché è una novità interessante che è arrivata assieme a Yosemite, la nuova versione del sistema operativo per Macintosh, ma oltre che certo riguardare il mondo Apple, però ci dà secondo me un'indicazione su quello che poi succederà anche in altri sistemi operativi. Questa è una funzionalità che si chiama Continuity, che significa continuità, e quindi crea di fatto un ambiente unico, connesso e collegato tra smartphone, tablet e anche il computer. Allora, come funziona? In poche parole, quando lo smartphone, quindi il device che è connesso alla rete cellulare in realtà, è nei dintorni di un tablet o in questo caso di un Mac, che sia un MacBook, che sia un iMac, non c'è differenza, questi interagiscono totalmente automaticamente, cioè non c'è bisogno che l'utente faccia un pairing, che faccia un'autenticazione, ma il telefono e il PC, per esempio, riconoscono che sono utilizzati da un utente che ha il medesimo Apple ID, cioè la medesima credenziale, è il medesimo utente. A quel punto basta che siano in prossimità, cioè che siano a tiro di Bluetooth o siano attestati sulla stessa Wi-Fi, quindi per esempio sono in casa, io, il mio telefono e il mio PC, squilla il telefono, che magari è in camera da letto piuttosto che nella borsa, la chiamata viene, per esempio, una delle funzioni, la chiamata viene riportata anche sul PC. Viene un pop-up con il nome di chi mi sta chiamando e anche la possibilità di rispondere. Posso rispondere via voce dal PC in tempo reale, facilissimamente, rispondere e interloquire perfettamente. E Yosemite è già disponibile oggi, quindi può essere già scaricato da chi ha un Mac e già funziona con tutti i device iOS 8. Da lunedì, quando uscirà iOS 8.1, sarà possibile utilizzare Continuity anche con gli SMS, quindi ricevere non soltanto gli iMessage ma anche gli SMS comuni direttamente sullo schermo e rispondere, dando quindi l'ordine al telefono di mandare per conto nostro un SMS, ma scrivendolo sulla tastiera. Quindi anche questo è un utilizzo assolutamente comodo. La stessa cosa identica succede con l'iPad, quindi iPad e iPhone lavorano insieme in un ecosistema finalmente molto ben integrato. Sì, questo è interessante, poi immagino che lo vedremo poi nelle prossime edizioni anche di Android. Già Android ha alcune caratteristiche di continuità, quindi si può ad esempio aprire una pagina web su un tablet e poi passare sullo smartphone con una certa continuità, però sicuramente Apple ha dato a questo concetto di continuità un significato molto molto più ampio, molto molto interessante questo. Concludiamo parlando di 5K. Allora, qua stiamo un po' esagerando, non so se stiamo esagerando. Voi sapete che già non esistono pochi contenuti in HD. E noi diciamo spesso che i produttori stanno esagerando con il 4K visto che non ci sono contenuti. Apple ha annunciato addirittura uno schermo, poi mi dirai tu su quale prodotto, 5K, cioè? Cioè si tratta dei nuovi iMac con display retina. Display retina, quando Apple dice display retina, sta indicando un display con una densità di pixel molto alta. In questo caso parliamo del nuovo iMac da 27 pollici, quindi il Mac con monitor integrato, il tutto in uno, display da 27 pollici, risoluzione 5120x2880, che fa circa 15 milioni di pixel. Su uno schermo, ed è lo schermo oggettivamente più risoluto che c'è, nel senso che le altre soluzioni commerciali sono quelle 4K, che quindi sono una risoluzione un pochino più bassa. A cosa serve sta roba? Ma è molto utile in realtà, che se ne dica, ma non certo per vedere un film su PC, cioè il PC non serve per vedere i film, per quello ci sono i TV. E i TV 4K sono disponibili in abbondanza a prezzi anche inferiori rispetto a questo PC, e con uno schermo molto, molto più grande e più adatto. Quello a cui serve è per esempio per editare le fotografie o i video, ma parliamo di fotografia. Noi spesso abbiamo detto che il vero motivo per cui va comprato un TV 4K oggi è per vedere le proprie fotografie, per vedere le fotografie che sono scattate magari a 20, 24, 36 megapixel con le reflex attuali, e normalmente quando si vedono su un TV Full HD o su un monitor comune le vediamo a 2 megapixel, quindi stiamo vedendo un brutto sottoinsieme della nostra fotografia, un brutto downscaling. In questo caso, con 15 megapixel sullo schermo, io posso andare a fare un editing fotografico, per esempio con Photoshop, di una foto a 15 megapixel, quindi se scatto a 12 megapixel vedo l'intera disponibilità dei miei pixel perfettamente uno a uno sullo schermo. In più mi resta anche dello spazio per avere delle palette di controllo e di utilizzo. La ratio del 5K sta anche lì. Apple dice puoi editare i film in 4K, cioè del video in 4K. Adesso si stanno diffondendo le videocamere in 4K, ma anche ci sono degli smartphone che catturano video in 4K, poi sulla qualità potremmo parlarne, ma il video è in 4K. Ecco, dice puoi editare questi video in 4K avendo uno spazio per vedere la tua immagine uno a uno, non un proxy, perfettamente la tua immagine, e avere ancora lo spazio per le palette di controllo del programma di montaggio. E quindi è una cosa eccezionale per un utilizzo evidentemente creativo, per navigare un sito web evidentemente è uno spreco. Va detta una cosa, questo apparecchio vogliamo provarlo non appena sarà disponibile, per vedere se la scheda video che è stata scelta è sufficiente per gestire 15 milioni di pixel in una botta, perché il grosso problema non è avere tutti questi pixel, ma riuscire a gestire tutta la potenza di calcolo che serve per pilotarli correttamente. Allora, dopo la prova ci dirai quale sarà il vostro giudizio. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie mille. Un altro motivo per ascoltare la nostra versione podcast è che in quella versione, tra poco disponibile sul nostro sito internet o dipende da che sistema utilizzate, che ne so, se siete abbonati tramite iTunes potete scaricarla anche tramite iTunes. Bene, sulla versione podcast parleremo anche di 5K, perché Apple ha presentato un nuovo computer, un iMac con un nuovo display 5K, e visto che più volte abbiamo detto che per molti usi il 4K è praticamente inutile perché non esistono contenuti tranne le fotografie, quindi l'unica ragione buona per acquistare un televisore 4K è vedere le fotografie con una risoluzione che si avvicina a quella della fotografia, sicuramente il 5K va in questa direzione, perché altrimenti non esistono contenuti. Ne parliamo nella nostra versione podcast. Adesso concludiamo parlando di servizi di messaggistica, ma soprattutto di servizi che permettono di telefonare, dialogare online. Allora, sappiamo che già da moltissimo tempo, da quando è nato Skype, si sono moltiplicati i servizi che ci permettono di chiamare gratuitamente sulla rete internet. Questa settimana Firefox ha annunciato un nuovo servizio che si chiama Firefox Hello. Allora, mi sono incuriosito, è un servizio sicuramente molto interessante che verrà integrato nel browser di navigazione Firefox, il programma di navigazione Firefox, che permette di instaurare, di attivare una comunicazione anche con una persona che sta su un altro computer e che ha ad esempio un browser diverso, come potrebbe essere Chrome, che viene supportato da questa tecnologia. Basta anche addirittura mandare un link e attivare una comunicazione, mentre invece negli altri servizi, come può essere Skype, come può essere Google Hangout e altri servizi del genere, bisogna avere un account e un software particolare, comunque risiedere all'interno di un servizio. Quindi se io voglio dialogare con un utente che ha Skype, anche l'altro deve avere Skype, siamo chiusi all'interno di quel mondo, non c'è interoperabilità, così come invece c'è per il telefono. Io non devo avere la stessa marca di telefono per telefonare a un mio amico, basta fare il numero di telefono. Allora, c'è una novità, questa è una novità sicuramente molto interessante per la interoperabilità di questi servizi, ma mi è venuto in mente che in Italia c'è un'azienda che ha inventato un sistema molto più performante di Firefox Hello, esiste già da qualche tempo, si chiama mTalk, mtalk.net. L'ha ideato MessageNet. Marco Fiorentino è l'amministratore delegato di MessageNet e ci ha spiegato in che cosa consiste e come funziona mTalk. Con mTalk.net abbiamo cercato di portare il VoIP alla portata di chiunque e renderlo dell'utilizzo più semplice possibile. L'utente può creare un proprio indirizzo web personale, può inserire questo indirizzo web personale nella sua firma della posta elettronica, nella sua pagina web, nelle sue chat, e chiunque clicca su questo link personale può immediatamente entrare in contatto vocale o chat con il possessore del link e stabilire questa comunicazione in modo immediato, senza installare nessun software sul proprio PC e ovviamente gratuitamente. È un servizio che funziona naturalmente su internet, quindi bisogna essere collegati a internet, ma su tutti i terminali, quindi su smartphone, tablet, sul computer, ed è anche interoperabile, cioè non devi avere necessariamente la stessa applicazione. Corretto. Su PC non è necessario installare alcun software ed è compatibile con tutti i browser oggi sul mercato. Su smartphone al momento richiede l'installazione di un'applicazione, ma con l'arrivo di WebRTC questo non sarà più necessario. Un'altra particolarità, e devo dire che noi su questo siamo abbastanza unici nel mondo, è che questo servizio è basato su standard aperti, per cui può essere utilizzato anche tramite qualsiasi apparato o software che rispetti lo standard SIP, che è lo standard mondiale del VoIP, per cui è un servizio aperto, al contrario della maggior parte dei servizi oggi sul mercato che richiedono di usare l'app specifica o il software specifico dell'applicazione e non interoperano con altri servizi. Noi invece siamo aperti all'interoperabilità. Uno potrebbe domandarsi, ma visto che ci sono altri servizi che permettono oramai di chiamare gratuitamente, ci sono un sacco di applicazioni, dalle più famose come Skype, ma insomma la lista è molto molto lunga, che senso può avere una cosa del genere, posto che già il fatto che sia interoperabile, cioè che non debba essere legato a un singolo operatore, è molto interessante, ma in generale qual è il senso? Ma io penso che il VoIP, da uno strumento che veniva visto primariamente come modo per risparmiare sulle telefonate, sta diventando uno strumento con molte sfaccettature, con molte tipologie di utilizzo, e questa secondo noi è una tipologia di utilizzo che non esisteva fino all'altro ieri, e la chiave è quella comodità. Cioè, se è più comodo per qualcuno contattarmi perché è sul suo PC, ha la firma della mia mail e trova molto comodo cliccare lì invece che prendere in mano il telefono, cercare il mio nome o peggio ancora battere il mio numero se non ce l'ha in rubrica, cliccherà quel link. E secondo noi c'è una fetta di comunicazione che rientra in questa categoria, per cui noi pensiamo che alla fine sia una questione di comodità. C'è anche da dire che questo tipo di servizio viene usato largamente anche da aziende che fanno un embedding del link nel loro sito web e in questo modo creano l'equivalente di un numero verde aziendale, col vantaggio che funziona da qualsiasi angolo del mondo. Lì c'è anche un vantaggio di costo, perché il numero verde di solito costa abbastanza tanto, soprattutto per le chiamate da mobile. Ed è di nuovo una prestazione che oggi non esiste, perché l'idea che tu sei sulla pagina web di un'azienda e clicchi su un punto della pagina web e ti parte automaticamente la chiamata dal browser verso l'azienda è una cosa nuova. Quindi io potrei nella firma della mia posta elettronica oppure su un mio sito fare enricopagliarini.mtalk.net, giusto? E uno clicca lì e mi chiama. Corretto, clicca lì, appare una pagina che tu puoi personalizzare e dopodiché ti può chiamare o ti può mandare un messaggio. E dall'altra parte tu puoi vedere se questa pagina web è aperta e puoi a tua volta iniziare una conversazione. C'è una particolarità che riteniamo che sia unica al mondo per il nostro servizio, che è che, diciamo, il pericolo di un servizio di questo tipo è che poi nasca il fenomeno dello spam, così come è nato con la posta elettronica. Perché la posta elettronica, essendo gratuita, permette a chiunque di mandare una mail a te o a me e di disturbarci anche quando non vogliamo essere disturbati, tanto è gratis. E noi abbiamo pensato che la stessa cosa sarebbe potuta succedere con un servizio di questo tipo. E per questa ragione abbiamo brevettato e implementato una procedura anti-spam VoIP che permette all'utente di decidere se vuole fare, diciamo, uno screening delle chiamate che arriva oppure no. Cioè, se lo vuole usare come un numero verde aperto a chiunque oppure come un servizio dove io provo a vedere chi è che mi sta chiamando e dopo decido se rispondere oppure no. Abbiamo detto più volte che questo è un servizio gratuito e stiamo parlando effettivamente in generale, quando parliamo di VoIP, di un sacco di servizi gratuiti. Qual è il modello di business di questa cosa? Perché voi siete una società, quindi... Allora, il modello di business è il modello freemium, che devo dire ha premiato MessageNet sin dal 99 quando è stata creata, e sostanzialmente il servizio di base è gratuito, ma eventuali prestazioni aggiuntive, per esempio la possibilità di poter gestire più conversazioni contemporaneamente, che può essere utile per un'azienda di una certa dimensione, ma non utile per la maggior parte degli utenti, quei servizi aggiuntivi saranno a pagamento. E questo secondo noi è una formula vincente, perché noi siamo felici di erogare il servizio gratuitamente a chi ne fa un uso ragionevole e siamo anche felici di far sì che chiunque lo possa provare. Poi, se la soddisfazione c'è e se l'utilizzo diventa pesante, si incomincia a pagare. E questa era la voce di Marco Fiorentino di MessageNet, uno degli operatori principali nell'ambito VoIP in Italia. MessageNet ha lanciato da alcuni mesi mTalk, trovate tutte le indicazioni su mtalk.net, molto semplice da provare, da utilizzare, poi magari diteci anche che cosa ne pensate. È tutto per questa puntata, questa è la versione podcast di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024, scritto in cifra 2024@radio24.it. Possiamo anche connetterci via Twitter o via Facebook. Ho letto che Twitter vorrebbe cambiare il modo con cui vengono proposti i tweet, non più in modo sequenziale in base al tempo, ma in base all'importanza, ad altri criteri. Se succede quello, il giorno dopo smetto di utilizzarlo, mi sembra una stupidaggine gigantesca. Vabbè, speriamo, vedremo che cosa succederà. È tutto per questa puntata, grazie ancora della vostra attenzione, e anche in questa puntata vi ricordo che avete ascoltato contenuti aggiuntivi rispetto a quello che è andato in onda su Radio 24, e quindi consigliate anche ai vostri amici, ai vostri parenti, a tutti i politici che conoscete di ascoltare il nostro programma. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024.